fuoco nel fuoco. That's our new hit for quasi dopo, cioè appena dopo le ore 18. Io sono Fergal Kavanagh, con me dietro il vetro c'è Fiore a fare controlli su tutti i dischi. E il nostro nuovo hit, Fuoco nel fuoco di Eris Ramazzotti. E voglio iniziare questo programma dicendo un grande giorno per lo sport, un poco grande giorno per lo sport, che il Ferrari sì ha vinto con Michael Schumacher, che poverino è stato commosso dal tragedia che è successo oggi, e siamo tutti commessi per questo giovane leone delle CE. Un disastro per lo sport oggi. Connessione in corso. Attendere, prego. Siete collegati con la macchina del tempo di Radio Tour. Sono stati selezionati gli anni 90. Radio Tour Classic. Richas with Represent, un po' di francese e spagnolo misto insieme, ed è giusto così perché loro abitano in Francia, a Parigi, e a Parigi è pure il corpo di Jim Morrison dai Doors. E ho avuto un messaggio da Flavio, vorrebbe sentire un pezzo di Doors. Purtroppo non ti posso accontentare, però magari alla festa di cui parliamo più tardi di Radio Tour, chissà. Comunque voglio pure salutare Lisa e Rose, vi voglio troppo bene. Questi sono messaggi che sono arrivati al nostro GSM Box 0348 24 38 888. Ecco, sta squillando già. Oh, vedo chi è. Chi è? Macelleria, ma dove siamo? Però c'ha un pezzo di carne alla prima. Magari è questo che ha ispirato questo. Una cosa strana. Il vero Robby potrebbe presentarsi, per favore? Dai, Robby, lo so che ci sei. Ecco, finalmente. Easy love. Oh, ragazzi, io adesso sono tornato dalla patria, dalla casa. Sono stato in Irlanda. In Irlanda sono riuscito a fare un paio di bagni, addirittura. Bel tempo lì. Ho visto un po' di piogge, ma mica tanto. Ma temperatura gradevole. Poi torno qua a Napoli e che trovo proprio alto vento, pioggia, fa freddo, grigio. E io invece soffro, ci ho beccato una brutta raffreddore, e vi posso ammettere che adesso c'ho mal di testa da schiantare. Perciò rallentiamo un po' con questo massaggio un po' i templi, il bel Moby di Porcelain. Però adesso un paio di messaggi. Allora, il Trento vogliono sapere, Lisa e Cecilia, se facciamo qualche festa in cui si può partecipare. La risposta è sì. Sì, è il numero di prenotare, è lo stesso numero del centrolinio, perciò non chiamate fino a domani, infatti sentite un po'. Però adesso chiamateci per il Just For You, avete il numero! Ehi, è anche utilizzato sul soundtrack di The Beach, il film con Leonardo DiCaprio, che adesso è a Roma, tra l'altro. Questo On The Beach, infatti, dobbiamo ricordare che sabato prossimo saremo a Varco d'Oro a fare la classifica Il Top 40 dai brani più richiesti da voi, e sicuramente troviamo anche questo prossimo pezzo che qualcuno ci ha telefonato poco fa a richiedere. E adesso per Vera e Stefania, Gianluca Grignani con Speciale. Sandbox, abbiamo ricevuto un messaggio da Diana ed Erika. Diana dice: Luca, sei mio angelo. Quello è Marilyn Manson. E Carmine, sei stupendo, dice Harry. Quello sarebbe Gingerfish. Bello questo. Il numero GSM è 0348 24 38 888. E ci siamo. Stiamo impazzendo. Sto dando i numeri e perciò vi do un altro numero, vai, per chiamarci per il Just For You, che dovete fare adesso al 081 790 14 11. E regaliamo un piccolo premio. Mio è quello che chiamo per prima. You and me. We're consoli with parole di burro. E il burro è una sostanza molto importante, ma un'altra sostanza che non puoi immaginare senza un cucino, che c'ha un angolo dove si trova non solo il burro, ma anche il caffè. E ragazzi, attenzione col caffè quanto consumate, perché sta quasi per finire. Dicono che una del foreste in Etiopia, da quale l'origine arabica caffè, arabica, e dove la pianta è genetticamente più ricca, negli ultimi anni è stata quasi completamente distrutta e la pianta di caffè decimata. Perciò chissà tra 100 anni se ci sarà ancora caffè, speriamo. Connessione telefonica. Request line. superato il consiglio di Radio Tour per l'estate è Pendium, la moda che ti mette in movimento. E Lucia ci ha chiamato per Claudia e Beppe che si sono sposati venerdì, perciò l'amour toujours, l'amour sempre, questo è Gigi D'Agostino. Ogni volta negro canna. E parlavamo prima del pensiero che non se non ci fosse più caffè rimasto sul pianeta, come faremo? Comunque pensi agli inglesi come vivono col tè. Qua c'è stato un sondaggio e praticamente quando loro vanno all'estero, quando vanno in vacanza, portano con loro, come popolo chiaramente, tipo 2 milioni di bustine di tè. Come popolo parlano di 14,9 milioni di viaggiatori. E poi anche portano e giustamente portano preservativi, 450.000 preservativi, quindi il Safe Sex, una campagna che abbiamo pure incoraggiato qua con Next Radio Tour. E dobbiamo pure, quando pensi agli inglesi e pure il cibo che mangiano, si pensano che non si mangiano molto bene, e invece loro, a loro piace così tanto il gusto del salame loro che portano 500.000 di confezioni di salame con loro. Bello questo inglese, eh? Allora, messaggi sul 0348 24 28 888. Che bello ascoltare Radio Tour col DJ più grande del mondo, steso sul letto con un meringa gigantesco. Siete grande, Nicky. Wow, grazie per questo bel commento, Nicky, e spero che ti piace Giovanotti, che adesso si sente il sottofondo e il soprafondo on Radio Tour. Superare dopo le vacanze, triste questo, però andiamo avanti, il bel tempo tornerà e la fine settimana e il dopo lavoro ci aspetta sempre. E Raffaella che ci sta ascoltando da Napoli, da qua, e Don Mario, a Jerry, Daniele, Sabato e Bombolo. Ecco, questo è un messaggio che è arrivato al 0348 24 38 888. E per Stefano, Don Mariana, anche se siamo stati lontani tanto tempo, tra noi non è cambiato nulla, solo che è cresciuto di più il nostro amore. Ti amo e non preoccuparti. Ecco, una bella cosa per chiudere il primo ore insieme. Ladies and gentlemen, the clock. Le 19. Primo la settimana scorsa in Irlanda e io c'ero davanti alla radio ad ascoltarlo. Questo è il nuovo dei Beautiful Day, nuovo degli U2, intitolato Beautiful Day, che precede l'album All That You Can't Leave Behind. E all'inizio stavo pensando, ma gli U2 che stanno facendo? Stanno facendo un pop song senza significativo, però se uno ascolta bene i testi c'ha da dire Bono, solo che devo controllare, devo studiare un po' le testi e magari un giorno vi darò il mio interpretazione. Che piacere presentare il nostro new hit per quest'ora. Io sono Fergal Kavanagh, con me al console c'è Fiore e saremo insieme per un'altra ora fino alle 20 stasera, e andiamo un po' indietro con una volta il storico cantante di Traffic. Mondo! E voi sapete che nella vostra vita, cioè le persone medie, le medie persone diciamo, passa 4 settimane dentro un ascensore, e qua davanti a me c'è un elenco di idee per fare il tempo passo più in fretta, perché 4 settimane in una vita è parecchio, no? Allora, quando c'è solo un'altra persona nell'ascensore, dallo un, come si dice, tap tap tap sulla spalla e fai finta che non eri tu. Spingi i bottoni e fai finta che ti hanno dato una sciocca. Sorridi e continui a sorridere. Chiedi se puoi spingere il bottone per altre persone, però spingere quello sbagliato. Tieni la porta aperta e dici che stai aspettando per un amico, e dopo un po' fallo entrare e dice: ciao bello, com'è stato il tuo giorno, anche se non c'è nessun altro. Bella idea questo, va bene, forse è meglio che guardate un po' in specchio o qualcosa in ascensore, no? Dell'estate, boom boom boom, that's Jan Pooley with Korakau Tambur. La mia foreign language lì non è al massimo. Enzo sta aspettando il suo amore, che non è mai puntuale. Fateci divertire, Enzo, l'hai scritto un po' di tempo fa, spero che tuo amore è arrivato a questo punto e tu ti stai divertendo pure con la musica, però non solo. E Mary e Totti, complimenti alla radio, e forse Ferrari, grazie. Allora adesso voi ascoltatori protagonisti, perché non alzate il telefono, perché è quasi arrivato il momento per Just For You più, il numero è 081 794 11. E adesso un canzone che era molto richiesta in passato, Neque, ci sei tu. The Moving Station è qualcosa che pensiamo sempre, stiamo pensando sempre al nostro profilo, figure eccetera, perciò la dieta, il DS è sempre uno dei primi pensieri. Però se sei un tartaruga magari non è una cosa piacevole di subire una dieta. In Svizzera adesso ci sono tartarughe giganti che stanno per scoppiare di salute, dicono pesano 10 volte di più degli esemplari che risiedono nel loro habitat naturale nell'isola Galapagos. La più grande, un maschio soprannominato Jumbo, pesa 212 kg. La loro dieta è stata integrata con cibo a basso contenuto di calore e ad alto contenuto di fibre. Speriamo bene con questo, tartarughe. Could I have this kiss forever? Whitney Houston and Enrique Iglesias per Claudia. Hear Me Tonight, un grande successo qua on Radio Tour, The Moving Station, on parte del top 40, immagino, almeno lo era la settimana scorsa. Ieri l'abbiamo saltato perché stavamo festeggiando la vittoria della Napoli in questo triangolare, quindi le cose sembrano bene, buone, grazie Padre Pio, dobbiamo dire. E quindi la settimana prossima torniamo sabato con la classifica del Lido Varco d'Oro dalle 15 in poi. E io sono appena tornato dall'Irlanda e lì ho visto un cartello per strada che diceva: hai visto il successo che stanno avendo i Boyzone, i Westlife e Samantha Mumba, e adesso perché non la facciamo pure noi, una scuola del genere? Che questo è Samantha Mumba, e se volete andare a scuola ad imparare come fare come lei, c'è un corso per voi in Irlanda. Grani sintomi, GSM Box 0348 24 38 888 per Luca, che si è appena battezzato. Bravo Luca, questo viene da Franco, Gerlando e Luigi, che vogliono pure dare gli auguri a papà Nello e mamma Stefania. Eppure saluto Roberto e Marcello e Corrina Valentina e tutto Radio Tour, grazie per questo, non fermato, comunque le apprezziamo. Qualcuno adesso ci ha telefonato, vediamo chi ha scelto. E per Maurizio facciamo sentire Carmen Quisi da Maxim con Skin. Go! Messaggio arrivato adesso. Ciccio Caddi, gridiamo ad alta voce. Non lo so che vuol dire, non è fermato. Comunque, ecco, alta voce Ciccio Caddi. Poi un saluto, un grande saluto al mitico Radio Turdo, Checo, Marci, Vidigal, Corri e Vale. Forza Napoli! Bravi, sì, sono d'accordo. E poi un altro ciao, sono Rossana. Sto in macchina con i miei genitori e con mio fratello Armando. Vorrei dire loro che li voglio un mondo di bene. Un bacione mega galattica. Bye! GSM Box 0348 24 38 888. Adesso un gruppo che stanno per fare un ritorno. Allora, il nuovo album dovrebbe uscire il 6 novembre. Ancora non si sa come sarà intitolato, però il nuovo singolo che sarà pronto nei negozi il 23 ottobre si intitolato Holler Holler, cioè gridare gridare. Tra poco sentiremo un nuovo Spice, ma adesso dal primo album, questo è To Become One. Salve, a proposito dell'amore, ci ha scritto sul GSM Box Coco, dice un messaggio: mia ex Antonietta, ti amo ancora tantissimo. Allora un saluto a Radio Tour e a Marcellino Bairobi, vuole sentire un brano, che adesso siamo quasi in chiusura, non c'è il tempo, mi dispiace Robby. E poi salve, io qui mi rompo di morire, ma per fortuna ci siete sempre quando ne ho bisogno. Ma se Tonino fosse con me, ora dimenticherei anche il mondo intero. Thank you, you're very welcome. Allora noi andiamo avanti con la musica. Qua troviamo un gruppo che il giorno 20 settembre saranno a Maschio Angino come parte del Occupato Ska, un festival organizzato da Officina 99, quindi 99 posti. La voce di Meg con i 99 posti sul brano Sfumature, e questo ci porta alla conclusione per questa domenica sera. Allora, appuntamenti di ricordarvi: sabato prossimo alle 15 in diretta da Lido Varco d'Oro, infatti tutto il giorno ci saremo, però il 15 ci sarò io a fare il top 40. Domenica prossima alle ore 17 18 saremo al Pizza Fest qua al porto di Napoli, quindi venite ad assaggiare un po' di pizza e salutarci. Io sono Fergal Cav, ringrazio a Fiore che ha gestito tutto, è stato bello lavorare come sempre con te, e poi ringrazio a voi che ci ha detto un po' le vostre orecchie. Alla prossima.